Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: chiaramente parleremo della Banca Centrale Europea e non solo, per quanto accaduto, che sta facendo il giro dei siti di mezza Europa, quindi la manifestante che salta sul tavolo mentre Mario Draghi sta illustrando l'analisi della Banca Centrale Europea, manifestata il movimento Blockupy, e ha lanciato coriandoli e confetti. Devo dire che poi ascolteremo anche l'audio, già i nostri GR24 l'hanno fatto ascoltare. Se uno guarda le immagini in radio è un po' difficile, la cosa che più impressiona è l'aplomb completamente britannico, un uomo a sangue freddo, Mario Draghi, che non si scompone e poi dopo l'accaduto riparte dicendo: bene, riprendo da dove mi ero interrotto, e si rimette a parlare di inflazione e appunto andamento economico dell'area euro. Al di là dell'episodio, in realtà Mario Draghi ha parlato molto di quantitative easing, quindi la misura adottata di acquisto 60 miliardi al mese di titoli di Stato dei vari paesi dell'area euro, acquisto che in buona parte, lo ricordiamo, per l'80% è in carico alle banche nazionali. E ha parlato chiaramente anche molto di Grecia. Ne affronteremo il tema subito in apertura di programma, dopodiché ci sposteremo sulla borsa, che è complessivamente positiva: Milano dell'1,26%, Parigi più 0,90%, Francoforte più 0,40%, Londra più 0,40%, l'America più 0,44%, l'euro debole ma sempre a quota 1,05%, molto forte CNH Industrial più 6,60%, si è tenuta l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam, varie dichiarazioni di Marchionne, sia sul collocamento della Ferrari. Ha detto Marchionne: non credo che andremo oltre il 10% nel collocamento della Ferrari, cioè il 10% di tutto il capitale. E poi, per quello che riguarda invece la Fiat, dice: l'assemblea si tiene in Olanda, ma perché anche quella di domani della Fiat Chrysler si terrà in Olanda, ma l'impegno del gruppo in Italia non è cambiato. Il titolo CNH guadagna bene, però invece il titolo Fiat aveva avuto andamenti più altalenanti, e lì c'è l'altra vicenda che riguarda l'annuncio di ieri. Ma volete sapere giustamente del titolo l'Exor che sborserà i soldi meno zero se verrà dato l'ok all'offerta che ha avanzato Exor, dicevo, perde adesso lo 0,53%, quindi un calo non particolarmente significativo, ma ne parleremo a lungo durante il commento di borsa, anche perché appunto ieri ha fatto un'offerta da 6 miliardi e 4 per Partner Re, che andrebbe a diversificare il portafoglio della holding Exor, infatti è la società che controlla il gruppo Fiat. Ancora, per quello che riguarda agli altri titoli, segnaliamo particolarmente bene Saipem, di nuovo sul risico delle società petrolifere, più 5,50, Tenaris più 4,5, Banco Popolare più 2,20, Intesa San Paolo più 2, Eni più 1,50, Pop Milano più 1,40, Ferragamo più 1,30, come Unicredit e Prismian e anche Tods, Ubibanca più 1,1, Buzzi Unicem più 1%, come Enel e il Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo chiaramente anche di Google. Ieri la notizia forte riguardava Alcatel-Lucent e l'acquisto o l'offerta avanzata su questo gruppo da Nokia. Oggi invece tutt'altro tenore la notizia, perché l'antitrust europeo ha aperto due procedure formali su Google, accusata di abuso di posizione dominante nel mercato della ricerca su internet, e poi anche un'indagine formale sul sistema Android. Il tempo per le risposte è 10 settimane. Secondo quanto scrive Wall Street Journal, Google rischia di dover pagare multe fino a 6 miliardi di dollari. Questi erano i temi di cui ci occuperemo. Adesso rapidamente le altre notizie in breve. Allora, subito un ascoltatore che è sempre puntuale, leccata giornaliera Mario Draghi. Ah, guardi, mentre contesto totalmente che questo programma abbia qualche inclinazione a favore o pregiudizialmente a favore del governo Renzi, trattiamo il governo Renzi come tutti gli altri governi, su Mario Draghi le confermo che Mario Draghi, a mio avviso, è in questo momento l'unica persona che in questo grande caos della casa europea ha tenuto la barra dritta, che se non c'era Mario Draghi non so cosa sarebbe successo all'euro, e che tutte le iniziative che ha mosso sono iniziative senza precedenti e che, andando anche contro l'opposizione forte, fortissima, esibita, manifesta della Bundesbank, della banca centrale tedesca, e visto che non sono tantissimi gli italiani in giro per il mondo, ce ne sono, ma nelle grandi istituzioni di cui essere orgogliosi, perché non si può dire che Mario Draghi a noi piace, generalmente piace, non ci piace solo il suo inglese, ci piace proprio quello che ha fatto. Certo che se lo lasci da solo il quantitative easing non otterrà gli effetti voluti, ma per quello che era nelle sue competenze e nelle sue possibilità, non so cosa potesse fare di più Mario Draghi. Da quando disse che avrebbe difeso l'euro con tutti i mezzi a sua disposizione, mettendo fine all'attacco speculativo all'euro, parliamo di metà del 2012 in poi, mi sembra che averne avuti di test pensanti in quel modo, averne di test pensanti in quel modo in Europa. Comunque, restiamo sui temi internazionali. La Cina rallenta la sua crescita, ha confermato un più 7% nei primi tre mesi del 2015, deludono i dati in Cina sulla produzione industriale. Visto che vi facevo riferimento, oggi è arrivata la conferma, ossia via libera da Nokia per l'acquisizione e successiva fusione con Alcatel-Lucent, che un'operazione che valorizza, cioè dà un valore al gruppo Alcatel-Lucent per 15,6 miliardi di euro e creerà il maggior gruppo mondiale nel settore delle strumentazioni e delle telecomunicazioni. I soci Alcatel riceveranno 0,55 euro per azione e avranno il 33,5% della nuova società, mentre quelli Nokia il 66,5%. Ieri il titolo Alcatel-Lucent era salito moltissimo, anche la borsa di Milano era il migliore. Oggi perde praticamente tutto, il 14,60% dopo i dettagli dell'operazione, fanno i conti infatti gli operatori. Si diceva però appunto anche dell'antitrust europeo, che non ha solo aperto due indagini formali generiche, riguarda anche Google Maps, hotel, flights. Insomma, sentiamo qual è la portata di questa misura nell'appuntamento con i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Dopo le anticipazioni di ieri sera, la Commissione europea ha inviato una comunicazione di addebiti a Google, il colosso americano di internet che fattura 66 miliardi di dollari, ne capitalizza 367 e controlla quasi il 90% del mercato europeo della ricerca su internet. L'accusa rivolta dall'Europa a Google è di abusare della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di ricerca e di ostacolare così la concorrenza. Dalle Google Maps all'e-commerce, dalla pubblicità fino ai contenuti presi da altri siti, il colosso americano manipolerebbe i risultati delle ricerche per favorire i propri servizi. Un altro fronte di indagine e di dissidio riguarda il problema del sistema operativo Android. Google, che ora ha 10 settimane di tempo per rispondere all'Unione Europea, rischia una multa fino a 6 miliardi di dollari. dollari. Tuttavia il caso Google sembra svelare anche altre ambizioni europee. La sensazione è che la Commissione UE sia intenzionata in qualche modo ad alzare il tiro per arrivare a una nuova regolamentazione delle piattaforme internet, regolamentazione capace di limitare lo strapotere americano sul web e di limitare al tempo stesso la minaccia che questo strapotere finisce per rappresentare anche da un punto di vista economico e industriale per il vecchio continente. Un tentativo quindi in extremis di recuperare anni e anni di ritardi e per sviluppare proprie piattaforme, propri motori di ricerca, sistemi operativi e social network europei, con il dubbio che ormai sia davvero un po' troppo tardi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie, poi passiamo al primo tema, ossia Mario Draghi, la BCE, il Fondo Monetario, che nel frattempo è, c'è il vertice del Fondo Monetario a Washington. Allora, proprio da, a New York, proprio da, dal Fondo Monetario arriva una valutazione sull'uscita della Grecia dall'euro, che sarebbe una cosa terribile per la Grecia e per i... e per i greci, mentre sempre sulla Grecia, da Berlino, il portavoce del famoso ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il falco del governo Merkel, ha detto: se qualcuno immagina che si possa pagare ad aprile, credo che si sbagli, nel senso che le trattative sul programma di riforme per ottenere gli aiuti hanno un termine definitivo a giugno e nessuno dell'Eurogruppo pensa che queste trattative, che provvederebbero poi l'elargizione, diciamo, dei finanziamenti alla Grecia, possono essere chiuse per il 24 aprile. Lo stesso Schäuble ha detto: la situazione è difficile, nessuno si aspetta una soluzione nel prossimo Eurogruppo, quello appunto del 24 aprile. Il governo tedesco, secondo il settimanale di Zeit, lavora un piano che consentirebbe alla Grecia di restare nell'euro anche in caso di fallimento. Era quello di cui ragionavamo ieri, cioè ci può essere un fallimento greco senza che la Grecia esca dall'euro. Per quello che riguarda invece l'Italia, segnalo che il ministro Poletti, il ministro del lavoro, ha detto che il governo ha espresso chiaramente l'intenzione di non voler procedere a ridurre le pensioni oltre 2.000 euro. È arrivata una domanda durante il question time se il governo vuole andare a ridurre le pensioni superiori ai 2.000 euro. E a proposito di pensioni, oggi è stato presentato a Roma il rapporto di Itinerari Previdenziali. Il nostro Andrea Viali ha fatto il punto sui possibili interventi da effettuare sul sistema pensionistico italiano con il presidente del comitato scientifico Alberto Brambilla. Gli aspetti più rilevanti del rapporto, cioè un po' i punti caldi, sono quelli relativi non tanto alla riforma delle pensioni, che dai dati risulta, diciamo, sotto controllo, e quindi la spesa pensionistica è una spesa che non presenta particolari problemi, se non nel comparto dei lavoratori dipendenti pubblici e nel comparto degli agricoli, che sono ormai il 90% del deficit, di questi 25 miliardi di deficit. Il problema che abbiamo evidenziato è la parte di assistenza, perché avendo depurato tutta la spesa previdenziale da quelle che sono le funzioni a carico della fiscalità generale, quindi delle tasse che tutti noi paghiamo, emerge praticamente che su un totale di spesa complessiva per previdenza e assistenza di 280 miliardi, 100 miliardi sono pescati dalla fiscalità generale per assistenza, pensioni al minimo, pensioni integrate al minimo, maggiorazioni sociali. Quindi è evidente che dove non si poteva andare sulle pensioni, probabilmente si è andati sull'assistenza, e questa è la spesa che va monitorata. Quindi va riordinato il sistema? Diciamo che sostanzialmente intanto va, come abbiamo fatto nel rapporto, riclassificata la spesa. Noi abbiamo tre punti che gravano nei dati Istat che vengono poi comunicati a Eurostat sulla spesa per pensioni, e quindi tutti puntano alle pensioni, ma in realtà questi tre punti sono assistenza. Quindi già riclassificandola cominceremo a chiamare le spese per nome e cognome, per centro di costo. Dopodiché, una volta fatta questa operazione, dobbiamo mettere un po' sotto controllo, come ha detto Guttgelt recentemente, per esempio il comparto dell'invalidità, che è un comparto che sta costando moltissimo e dove ci sono molti abusi. Dalle pensioni all'Expo, oggi è stato presentato il piano delle Ferrovie dello Stato per l'Expo di Milano. Allora, vi sarà, chiaramente viene aumentata l'efficienza e la capacità di trasporto, una torre di controllo unica per gestire e monitorare il traffico ferroviario in Lombardia, e sarà quella di Milano Greco Pirelli, e tra l'altro sull'asse orizzontale Torino-Padova. E poi migliorie nelle stazioni, tra l'altro un programma di investimenti proprio per l'Expo, che ha illustrato alla nostra Anna Marino il numero uno di Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato Michele Mario Elia. Siamo addirittura finale, più che addirittura finale, no. I lavori che ha seguito Italfer sono a oltre il 95%, in pratica 15 giorni dall'apertura si possono considerare ultimati. Quanto riguarda invece RFI, ha lavorato su parecchie stazioni del nodo di Milano, no? Spendendo circa 90 milioni. In più abbiamo un lavoro grande di gestione dell'intero traffico nel nodo di Milano e sulla direttrice Torino-Venezia. Sapete che abbiamo un contratto di oltre 700 milioni per gestire tutta la rete. In più abbiamo interventi notevoli su tutte le linee afferenti al nodo di Milano, venendo dalla Svizzera, la linea di Luino, Chiasso. Stiamo lavorando dappertutto. Diversi miliardi impegnati nella Lombardia, da e per la Lombardia. Avete verificato un incremento per l'Expo anche di previsione, insomma, di utilizzo? Sembra che siano 20 milioni previsti che debbano arrivare, in questi circa 5-6 milioni viaggeranno col treno. Abbiamo diverse stazioni monitorate con le telecamere, stiamo completando anche l'impianto di sicurezza della security più che della safety ferroviaria di circolazione anche nell'Expo, anche per gestire il movimento di tanti viaggiatori, tanti visitatori dell'Expo, no? In più stiamo dando servizi aggiuntivi nelle stazioni, come il wifi almeno a Rho, Garibaldi e Milano Centrale, il collegamento con un'applicazione che gli consenta di avere informazioni sia della stazione, sia dei servizi, sia di quello che trovano all'esterno. Allora, tra l'altro nel semestre dell'Expo arriverà anche sui binari dell'alta velocità il Frecciarossa 1000, ne abbiamo già parlato, è secondo quanto dichiarano le Ferrovie dello Stato il treno più moderno e tecnologico d'Europa a livello di alta velocità, e poi altre opere assegnate alla direzione dei lavori di Italfer. Per quello che riguarda i lavori dell'Expo invece è intervenuto oggi durante la presentazione dell'offerta delle Ferrovie dello Stato anche il governatore della regione Lombardia Roberto Maroni, e tra l'altro ha detto che i lavori sono in buona salute nonostante la mancanza di fondi e le difficoltà, e poi è intervenuto anche sul tema infrastrutturale. L'impegno della regione Lombardia sulle infrastrutture ferroviarie e sui treni è rilevante. Il 26 di questo mese entrerà in vigore il nuovo piano dei servizi ferroviari Trenord per Expo, e sarà un forte potenziamento dei treni. Vi do solo un dato: con il nuovo piano la stazione di Rho Fiera, che è quella per Expo, sarà servita da 380 treni ogni giorno, uno ogni 6 minuti, per 900.000 posti aggiuntivi ogni ora, 400.000 posti al giorno. Ecco, un impegno rilevante della regione in occasione di Expo, e quindi un investimento che servirà anche per il futuro, per il dopo Expo. Presenteremo nei prossimi giorni questa grande iniziativa che è il Cruscotto Expo, che mette insieme la Protezione Civile Regionale, le forze dell'ordine, con un coordinamento straordinario. Questa è già realtà, e quindi sono anche da questo punto di vista molto ottimista sulla struttura dei controlli. Il fatto che ci sia l'Expo potrà migliorare anche i trasporti della Lombardia, magari anche quelli pendolari. Noi abbiamo acquistato 60 nuovi treni che entrano, molti già sono entrati in funzione, entreranno in funzione anche entro Expo 30 di questi 60, ne mancano 9, gli altri sono già entrati in vigore, 21, quindi entro il mese di maggio sarà la sostituzione completa. Questo porterà a regime a un'età media dei treni in Lombardia di 20 anni. Il potenziamento quindi sopra la rete lo facciamo noi, il potenziamento della rete lo fa RFI, è per questo che coglierò oggi l'occasione con la presenza di Elia per chiedergli l'impegno ad investire in Lombardia nei prossimi mesi. In che ordine l'investimento potrebbe essere? Minimo 1 miliardo di euro. Allora attenzione, perché le 236 corse al giorno cui faceva riferimento Maroni, 130.000 posti al giorno, riguardano tutte le corse. Per quello che riguarda invece l'alta velocità, le frecce, per essere ancora più precisi, ci saranno 37 frecce al giorno che si fermeranno nella stazione di Rho Fiera, che è la nuova stazione delle Ferrovie dello Stato, quella, per capirci, è anche dove arriva il collegamento con Cadorna. Però Rho Fiera è parallela, diciamo, a quello che è il collegamento attuale della metropolitana. È una nuova stazione dell'FS in cui i Freccia Rossa, passando molte volte dalla centrale, arriveranno direttamente a Rho Fiera. Sono 37. Poi ci saranno gli Intercity, treni dalla Svizzera e Francia e, come diceva anche Maroni, potenziata anche l'offerta di Trenord. Esperem, nel senso che nel frattempo da notizie di stampa veniamo a scoprire che la parte del padiglione Italia, che in questo momento, per quello che vediamo, è l'elemento più tormentato dell'intera Expo, dell'intera manifestazione, è costato 92 milioni, 30 in più rispetto ai 63 iniziali, ma tutti coperti dagli sponsor, come ha assicurato il commissario dell'Expo Giuseppe Sala. minuti. Allora, Mario Draghi, movimentata conferenza stampa del Presidente della Banca Centrale Europea. Perché, tanto andiamo subito alla cosa che più alcuni vogliono ascoltare. Un esponente di Blockupy si è lanciato sul palco dove il Presidente Draghi parlava, appena iniziato a parlare, lanciando coriandoli e confetti prima di essere bloccata dalle guardie del corpo. And will underpin the firm. And ECB dictatorship. And ECB dictatorship. And ECB dictatorship. And ECB dictatorship. And ECB dictatorship. And ECB dictatorship. And ECB dictatorship. Ladies and gentlemen, we will shortly adjourn the conference and start in a few minutes again. Thank you for your understanding. Allora, quello che avete appena ascoltato è il momento in cui Mario Draghi viene interrotto da manifestante. Allora, due cose mi hanno colpito: l'aplomb, la freddezza di Mario Draghi, che ha ripreso a parlare, ha detto continuo dove mi hanno interrotto, e della cosa positiva. Dall'altro invece la cosa negativa è che, comunque, se vogliamo mettere giù, visto il periodo, a livello di sicurezza, il fatto come una manifestante che ha tutti i diritti di manifestare fuori, ma riesca a entrare nel momento, nel luogo in cui Mario Draghi sta parlando con confetti e coriandoli, ecco, non è il massimo della vita. Comunque ci colleghiamo, cercando di tenere dentro tutto, sia Fondo Monetario che Banca Centrale Europea, con Alessandro Merli, che si trova a Washington per seguire anche i lavori del Fondo Monetario Internazionale. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera, mi dispiace molto. Ecco, ma stavo per dirtelo, sai. Io sono Stavo per dirlo, vediamo di ripristinare il collegamento, perché mi ha anticipato la battuta, nel senso che con tutte le conferenze stampa che hai fatto di Mario Draghi, che certo, perché sono importantissime, ma non sono una botta di vita ed allegria, insomma, il momento clou più di colore te lo sei perso. Allora, detto questo, andiamo sulle cose serie. Mario Draghi sul quantitative easing ha detto: attenzione, sorprende che qualcuno possa ipotizzare che il programma di acquisto di titoli di Stato sarà interrotto prima del tempo e che lo possa ipotizzare a poco più di un mese dall'inizio. As regards the non-standard monetary policy measures, on 9 March, riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, il 9 marzo scorso abbiamo iniziato l'acquisto di titoli pubblici. Gli acquisti, nelle nostre intenzioni, dureranno fino a fine settembre 2016 e in ogni caso fino a che l'inflazione non sarà in linea con il nostro obiettivo di un livello al di sotto, ma vicino al 2% nel medio termine. Il programma di acquisti sta procedendo senza intoppi, con volumi in linea con quanto avevamo annunciato, ossia 60 miliardi di euro al mese. Inoltre ci sono chiari segnali che le misure messe in campo dalla BCE stanno funzionando. Le preoccupazioni sulla scarsità di bond acquistabili da parte della BCE sono esagerate. Non vediamo alcun problema. Il nostro programma è flessibile in modo da essere modificato se la situazione lo richiederà. Ripeto, le preoccupazioni sono premature e non sostenute da prove. Notiamo che le nostre misure di politica monetaria si stanno facendo strada e stanno arrivando all'economia reale. Onestamente, sono piuttosto sorpreso per tutta l'attenzione che hanno ricevuto le ipotesi di una fine anticipata del programma. Lo abbiamo iniziato soltanto un mese fa. È come se una persona iniziasse una maratona e si chiedesse, soltanto dopo pochi chilometri, se riuscirà mai a finirla. Allora, Alessandro Melli, perché era così sorpreso Mario Draghi e così anche un po' irritato? Adesso lasciamo stare la parte, diciamo, della manifestante sulle ipotesi che lui potesse interrompere l'acquisto di titoli di Stato prima del tempo. Beh, perché parliamoci francamente, un programma che è previsto sulla durata di 19 mesi, dopo un mese c'è già qualcuno che comincia a dire: beh, è ora di smetterla perché in fondo l'economia sta riprendendo, i mercati vanno bene, non ce n'è più bisogno, è abbastanza paradossale. Cioè, abbiamo dibattuto, la BCE diciamo ha dibattuto e tutto il mondo circostante, giornali, giornalisti, economisti, politici di tutti i paesi dell'euro, per mesi e mesi se bisognava o no fare QE. Quando finalmente viene varato, dopo un mese, c'è questo clamore per sospenderlo, è effettivamente abbastanza anomala la cosa, anche perché non dimentichiamo la situazione attuale sia dell'economia ma soprattutto dei mercati è in parte determinata, e Draghi poi successivamente l'ha detto, aspettative che lì si facesse, poi dall'annuncio del QE e finalmente a partire dal mese scorso dal fatto che questo QE è finalmente partito. Quindi è chiaro che non c'è la controprova, però se non ci fosse stato il QE forse la situazione sarebbe un po' meno tranquilla. Ah beh, su questo non ci sono dubbi. Andando avanti invece, Draghi chiaramente è intervenuto anche sulla Grecia, e qui mi ricollego anche a quello che sta arrivando e sta uscendo da Washington, dal Fondo Monetario. Ha detto: continuiamo a dare liquidità alle banche greche. Draghi non può parlare del resto del prestito europeo, che è un'altra cosa, e lì anche oggi le varie dichiarazioni hanno ricordato, soprattutto tedesche ma non solo, che difficilmente, se non praticamente impossibile, che il prossimo 24 aprile dall'Eurogruppo si sblocchino i soldi per Atene. Però ha detto: attenzione, la liquidità della Grecia non ha scadenza, ma tutto è nelle mani di Atene. We approved the LA and we'll continue to do so. Abbiamo approvato l'ELA, il finanziamento di emergenza, e continueremo a mantenere aperto questo canale per le banche greche fino a quando saranno solventi e avranno titoli collaterali da dare in garanzia. Ad oggi abbiamo raggiunto un'esposizione verso la Grecia pari a 110 miliardi di euro. In termini di PIL è la più alta di tutta l'area euro. Aggiungo che in ogni caso continuiamo ad essere un'istituzione che opera in base alle regole. La liquidità alla Grecia non ha scadenze. Dipende interamente dalle condizioni che sono e saranno presenti. La risposta a tutte le domande sul programma ELA, sul sostegno alle banche greche, è interamente nelle mani del governo ellenico e nei negoziati tra Atene e i paesi della zona euro. Non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di un'insolvenza sui pagamenti da parte della Grecia. E da quanto affermano i vertici del governo greco, nemmeno loro considerano questa ipotesi. Allora, uniamo Alessandro Merli Francoforte con Washington. Anche da Francoforte, insomma, anche da Washington si è detto attenzione, insomma, sarebbe molto molto oneroso, preoccupante, drammatico per la Grecia uscire dall'euro. Ti risulta che l'ipotesi su cui si stia lavorando casomai è di un fallimento greco senza che la Grecia esca però dall'euro? Ma le ipotesi che si fanno sono tante. Adesso quale sia l'ipotesi di lavoro è difficile dire. Io credo che per il momento tutti stiano ancora cercando di vedere se questa questione riesce a essere ricomposta. Ho parlato ieri con una persona al Fondo Monetario che segue questa trattativa molto da vicino e mi diceva che è estremamente improbabile che si arrivi a un accordo la prossima settimana, quando c'era l'Ecofin informale a Riga, il che non significa però che non continueranno a provare anche successivamente. Questa scadenza della settimana prossima è una scadenza in questo senso autoimposta dal governo greco, che ha detto stanno finendo i soldi, e in effetti i soldi stanno finendo, però credo che qualche settimana ancora di arrivare a una conclusione. Poi si tratta di vedere se effettivamente vogliono arrivarci o, come diceva lei, insomma, alla fine molto sta nelle loro mani. Ecco, ma la prospettiva invece transoceanica, cioè americana, noi abbiamo visto nel passato Obama sia bacchettare la Germania non sulla Grecia ma sull'eccesso di surplus che ha la Germania, quindi di attivo nella partita uscite e entrate, e bacchettare la Grecia per gli atteggiamenti anche politici che aveva preso. C'è timore negli Stati Uniti che la situazione possa avvitarsi con conseguenze anche nel rapporto di cambio euro-dollaro? Ma diciamo che più che quello, io credo che negli Stati Uniti siano delle considerazioni geopolitiche importanti da fare. La Grecia è ovviamente un partner importante nella NATO e soprattutto nel momento attuale certo gli Stati Uniti non vogliono vedere che la Grecia o Atene scivola nell'orbita della Russia, anche se questo tentativo di Tsipras di andare da Putin e cercare una sponda non è che sia andato proprio così bene. Quindi la considerazione geopolitica, diciamo, in questo momento farà prendere su tutto negli Stati Uniti. Varoufakis è in arrivo qui a Washington, pare che avrà un brevissimo incontro a un evento di tavolo mondiale con Obama, nel quale ci sarà poco più che una stretta di mano, e poi avrà invece degli incontri al tesoro americano. Però non dimentichiamoci che il tesoro americano non è parte in causa in questa trattativa, non solo, ma a parte che i fondi vengono dagli europei, anche per quello che riguarda la parte del fondo monetario sono proprio gli Stati Uniti che bloccano da tempo l'aumento delle risorse del fondo monetario. Quindi non sono proprio il pulpito che può dire agli europei: beh, adesso dovete dare dei soldi alla Grecia. Quindi ci sono queste preoccupazioni da parte americana, probabilmente verranno esplicitate nei prossimi giorni soprattutto dal segretario del tesoro Jacob Blue, però credo che si limiteranno a questo. Alla fine, insomma, la discussione è fra l'Europa e la Grecia. Are you with me? Are you with me? Allora, la borsa adesso che ha chiuso con un rialzo dell'1,20%, Parigi più 0,70%, Francoforte invariata, Londra più 0,30%, Dow Jones più 0,30%, quindi Milano nettamente meglio delle altre, soprattutto per due, o meglio tre titoli. CNH Industrial, oggi si è svolta l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam, domani vi sarà quella e c'è neanche Case New Holland, quindi la divisione del gruppo Fiat Chrysler che fa mezzi di trasporto, camion e non solo, e anche trattori, ci mancherebbe. Dicevo, ha fatto oggi l'assemblea degli azionisti, il titolo guadagna 6,40%. Domani ad Amsterdam vi sarà quella sempre della, invece della Fiat Chrysler. Il titolo Exor oggi si muove su altre dinamiche, poi vi arriveremo. Il secondo titolo invece che è cresciuto moltissimo è Saipem, più 5,20%, e poi Tenaris più 5%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, partiamo da Case New Holland, il cui acronimo è appunto CNH Industrial. Marchionne ha parlato anche della Ferrari da Amsterdam, ha detto non andrà il collocamento in borsa, la Ferrari riguarderà al massimo il 10% del capitale, ma il titolo ovviamente non si è mosso sulla Ferrari, Andrea. Sì, no, certamente per CNH hanno pesato, è un positivo l'indicazione sul 2015, Marchionne ha detto guardiamo con fiducia all'anno in corso, dopo un 2014 positivo, guardiamo anche opportunità quindi di crescita e di espansione nel settore delle macchine agricole, quindi un'attenzione su questo titolo in una giornata in cui tutte le varie controllate appunto del mondo Exor sono finite sotto i riflettori anche per l'operazione annunciata ieri negli Stati Uniti, che chiaramente pone attenzione e rivalutazioni su tutte le società del gruppo Exor. Allora, per quello che riguarda gli altri titoli, Saipem continua invece il risico dopo l'operazione Shell, nel senso che sappiamo che Saipem prima doveva essere ceduta, poi l'Eni ci ha ripensato, però adesso il mercato riscommette, immagino, sul risico del mondo petrolifero, più 5-20%. Beh, certamente da qualche seduta si è tornati a parlare di un nuovo partner, di un nuovo investitore che potrebbe affiancare in un primo tempo l'Eni nel capitale di Saipem. Questo unito anche alle speculazioni su nuovi contratti, oggi si parla di un nuovo importante contratto in Turchia in arrivo, stanno dando un forte motivo di recupero sul titolo. Bene, anche Tenaris più 5%, qui Tenaris si muove anche un po' col settore energetico, no? Sì, oggi diciamo questo movimento importante che ha fatto il petrolio riportandosi ben sopra i $55 al barile per quanto riguarda il contratto newyorkese, ha spinto tutto il settore energetico e petrolifero, sono stati i due settori migliori in tutta Europa, e molto bene si è mossa anche Eni, che ha guadagnato l'1,75% arrivando anche a guadagnare quasi il 2% nel corso della seduta. Allora, i peggiori invece oggi è Mediaset, che perde il 3,70%, Hughes lo 0,70%, Exor lo 0,60%, A2A meno 0,37%, cito anche Moncler che perde lo 0,24%, e Snam che perde lo 0,13%, debole Wall Duty Free meno 0,10%. Tra chi ha guadagnato invece Eni si diceva più 1,70%, Unicredit più 1,30%, come la Pop Milano. Thank you. Well, it would be good for continuing this press conference that I have my introductory statement with me. Otherwise, I will have to improvise. And thank you. Well, let's continue where I stopped. Questo è l'aplomb mostrato, visto che ce lo chiedevate, da Mario Draghi dopo che una manifestante dell'FM gli è saltata sul tavolo quando aveva appena iniziato a parlare, lanciando coriandoli, confetti al grido basta con la dittatura del della BCE, manifesta per blocco che occupai. Questo è l'aplomb e la freddezza dimostrata da Mario Draghi, che ha detto meno male che avevo il mio discorso, avevo i miei fogli con me, altrimenti avrei dovuto improvvisare. Noi invece torniamo sulla borsa. Allora, Andrea Fontana, si diceva Mediaset meno 3,75% e poi Exor dopo aver annunciato l'operazione ieri. Partiamo da Mediaset. Sì, per Mediaset un brutto stop dovuto soprattutto alle indicazioni che sono emerse sul mercato pubblicitario. Il meno 2,8% di febbraio, complessivamente un meno 3,8% nei primi due mesi dell'anno, non è stato preso bene dal mercato. Si sapeva che il primo trimestre era il più debole e la società prevede un miglioramento nella seconda parte dell'anno, ma certamente questo stop era abbastanza inaspettato, almeno nelle dimensioni. Per quanto riguarda Exor, il mercato sta ancora un po' ragionando sull'operazione, un'operazione molto importante e soprattutto con ancora degli elementi di incertezza. Arriverà in fondo all'operazione, ci saranno rilanci da parte di altri operatori, quindi è chiaro che c'è stata ancora una posizione un po' attendista, per quanto il giudizio generale sia positivo su un'operazione che diversifica il portafoglio di Exor al di là del settore auto e delle macchine agricole di CNH. E quindi l'operazione su Partner RI. Ancora tra gli altri titoli, Yux meno 0,70%, movimento sul mondo bancario, anche se più che altro su Intesa San Paolo più 1,80%, Banco Popolare più 1,80%, Pop Milano più 1,30%, UbiBanca più 1%. Tra i titoli migliori e peggiori oggi vediamo invece che Alcatel-Lucent cala del 14%. Ieri la fiammata dopo l'annuncio, meglio la conferma, delle trattative in corso con Nokia, oggi la conferma dell'operazione stessa da parte di Nokia, che valorizza anche bene il titolo Alcatel-Lucent, 15,6 miliardi di euro, questo è il valore che Nokia dà a Alcatel-Lucent. Con i soci Alcatel, che riceveranno 55 centesimi di euro per azione, avranno il 33,5% della nuova società, e che sarà il maggior gruppo mondiale nel settore delle strumentazioni delle telecomunicazioni. A Nokia resterà il 66,5%. Come mai il calo così pesante? Hanno fatto i conti? Soprattutto perché l'offerta è interamente in carta, ci si aspettava un'offerta in contanti, nelle indiscrezioni, e dopo le fiammate che tu dicevi c'è stata anche una parte di presa di beneficio, ma fondamentalmente un po' di delusione sugli strumenti utilizzati per l'offerta, e questo diciamo non è piaciuto molto il mercato, il titolo ha perso in doppia cifra. Ancora tra i titoli che bene si sono mossi, abbiamo visto Anima muoversi in maniera interessante, nel settore invece del risparmio gestito faccio notare che Azimut oggi è rimasto al palo. Anima. Sì, c'è stata l'ufficializzazione di questa operazione, le cui indiscrezioni erano state riportate dal Sole 24 Ore anche nei giorni scorsi, cioè l'uscita di Monte dei Paschi di Siena dall'azionariato di Anima, aveva poco più del 10%, e un ingresso importante, cioè l'ingresso di Poste Italiane, un ingresso che non sarà solo azionario ma sarà soprattutto, e questo il mercato premia, una partnership industriale, perché Anima metterà i prodotti e potrà sfruttare la rete di Poste Italiane. Il mercato è da giorni che premia il titolo Anima, tant'è vero che oggi è salito nonostante la transazione tra Monte dei Paschi e Poste Italiane sia avvenuta ad un prezzo più basso rispetto a quello di borsa. Anima quota 8 euro oggi, la transazione è venuta poco sotto i 7 euro, ma un'operazione molto importante per Anima e per Poste, anche per il Monte dei Paschi, che incassa oltre 200 milioni di euro, oggi è salito dello 0,8%. Andrea, il titolo Fedon, Giorgio Fedon, anche oggi fa un balzo, un botto, più 17,40%. Confesso la mia ignoranza, non ho letto notizie di rilievo, ma Andrea. Sì, no, anch'io non ho indicazioni su questo movimento, ma certamente sarà un titolo da tenere sott'occhio, anche perché è un movimento fatto con una quantità di titoli inferiore ai 5.000 pezzi, per cui un movimento molto sottili. Bioera più 16,70, Key Group più 15,30, Mono TV Swiss più 8,80%, questi migliori in assoluto. Sul fronte opposto, Vray Communication meno 6,80, Meridian meno 6,70, Kaleido meno 5,90, SafeBag meno 4,20%. L'ultimo tema che vorrei toccare con te riguarda il mondo delle popolari. Oggi abbiamo avuto alcune notizie su questo, una che riguarda soprattutto Veneto Banca, perché insomma finisce l'era Consoli. Tra l'altro appunto Consoli era in Veneto Banca praticamente era dirigente nel 97 e amministratore delegato dal 2008. Sappiamo che le voci si rincorrono di una possibile fusione tra Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Si è saputo oggi, leggendo la relazione finanziaria semestrale del 2014, che alla scadenza di mandato dall'amministratore delegato non rinnovato gli sono stati corrisposti 3.600.000 euro a titolo di pena per la risoluzione. Faccio notare che nel frattempo gli azionisti di Veneto Banca hanno avuto un calo, una svalutazione del titolo di quasi il 25%. Mondo delle Popolari, Andrea. Beh, oggi il mondo dei popolari è stato positivo, è stato tra i migliori nel settore bancario, un andamento del settore bancario che oggi aveva un po' sofferto in mattinata, ma è stato risollevato un po' come tutto il comparto dalle parole di Draghi, che ha rassicurato sull'andamento dell'operazione di acquisto di titoli, il cosiddetto quantitative easing. Qualcuno nei media e tra gli analisti sta muovendo un po' delle critiche o comunque delle perplessità sulla disponibilità di asset da acquistare sul mercato, di titoli sul mercato. Draghi ha rassicurato, questo ha permesso un po' ai rendimenti dei titoli governativi di contenersi e agli acquisti sulle popolari e sugli istituti bancari di crescere. Il Banco Popolare è stato il migliore, ha guadagnato l'1,8%, chiaramente siamo in una fase post-assembleare dove si sa che stanno partendo i giochi, qualcuna ha già nominato anche gli advisor per studiare le integrazioni. La Pop Vicenza, se non ricordo male, Mediobanca. Esatto, e quindi chiaramente sarà un settore, ed è un settore che è sempre oggetto di forti attenzioni. Allora, grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso il traffico, poi restiamo sul tema che in parte stavamo trattando, Alcatel-Lucent, ma per allargarlo, fermo restando che parliamo di un settore simile ma di due casi molto diversi, a quanto è accaduto oggi a Google. Era nell'aria da almeno due giorni la notizia, oggi la conferma che l'antitrust europeo ha aperto due procedure formali contro Google. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Google potrebbe dover pagare o arrivare a dover pagare fino a 6 miliardi di dollari di multa. Allora, due operazioni, o meglio, due notizie. Una è un'operazione vera e propria Alcatel-Lucent che va o andrà nelle mani di Nokia, e dall'altro invece di nuovo l'antitrust europeo. Qualcuno ricorderà la vicenda dell'allora commissario europeo Monti con Microsoft. In questo caso l'antitrust europeo ha aperto due procedure formali su Google, inviando all'azienda quello che si chiama uno statement of objection, con l'accusa di abuso di posizione dominante nel mercato della ricerca, dei motori di ricerca su internet, e poi ha aperto separatamente un'indagine formale sul sistema Android. Allora, siamo in collegamento con il direttore di Wired Italia, Massimo Russo. Massimo, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Alziamo un attimo il livello, ti sentiamo un po' basso. L'accusa, insomma, cerco di capirla e di farla capire a tutti. L'accusa è che Google abbia il motore di ricerca dominante come soggetto sul mercato, e vorrei capire invece qual è l'accusa che viene mossa al sistema Android, anche perché non voglio difendere Google, non me ne frega nulla, però è noto che Google è forse il motore di ricerca più utilizzato al mondo, e vorrei capire come si fa a contestare, se un prodotto, mettiamolo così, ha successo, che cosa contesta la Commissione europea a Google. Prego. Allora, per quanto riguarda il motore di ricerca, la preminenza sul mercato di un soggetto non è di per sé censurabile da parte dell'antitrust. Quel che è censurabile è se di questa preminenza, cioè di questa posizione dominante, si fa un abuso. E a questo riguardo c'è da 5 anni, perché la procedura che oggi viene formalizzata in realtà è partita 5 anni fa, c'è da 5 anni a questa parte una serie di contestazioni che sono state fatte a livello europeo da concorrenti di Google. C'è un'alleanza all'interno della quale c'è l'editore Axel Springer più altre società che si occupano principalmente di e-commerce. sostengono che il motore di ricerca americano dà preminenza ai propri risultati nel momento in cui si ottengono le risposte. E Google da parte sua risponde: certo, lo facciamo perché, per esempio, quando tu cerchi un cinema o quando cerchi un volo, noi immediatamente non ti rispondiamo con la sfilata di link che si utilizzava una volta, ma oggi siamo diventati talmente bravi che ti portiamo immediatamente alle notizie. Allora, questo è un punto di rimente, cioè l'accusa, lo dico perché questa vicenda tu ricordavi che va avanti da anni, tant'è che c'è un cotè anche politico di carattere europeo. Quando il commissario alla concorrenza era Gioacchino Almunia, sembrava prossima la conclusione, poi cambiando l'esecutivo dell'Unione Europea e adesso il commissario alla concorrenza è Margrethe Vestager, che invece ha un atteggiamento molto più duro con Google, appunto l'ha accusata di abuso di posizione dominante perché sistematicamente mostra in posizioni più visibili nei risultati di ricerca i suoi servizi di comparazione di prodotti indipendentemente dal merito. Questo è quello a cui tu stai facendo riferimento, cioè se io cerco una cosa mi esce subito la parte che riguarda Google, sì, anche se ho ben capito l'accusa, però anche quando non è il sito più adatto o più meritevole, cioè Google predilige nella ricerca i suoi siti. E questo sarebbe l'abuso, Massimo? Esattamente. Google a questa accusa risponde in tre modi. Da una parte dice: oramai non siamo più a 10 anni fa e quindi noi siamo in grado di capire non solo quali sono i link più pertinenti, mm-hmm, ma a volte anche qual è esattamente l'informazione che stai cercando. Quindi oggi, per esempio, quando noi cerchiamo un film a Roma o a Milano, Google ti risponde direttamente con i cinema dove quel film viene mostrato, senza farti vedere altri link. Si apre una finestra dove c'è, certo, direttamente l'informazione cercata. Dall'altra parte, Google sostiene due cose. La prima è che nel periodo esaminato, per quanto riguarda i settori, che sono il settore dei viaggi principalmente, sì, e il settore dell'e-commerce, la concorrenza è molto aumentata. Cioè, in sostanza dicono: ma se noi avessimo ammazzato la concorrenza, oggi saremmo rimasti padroni. Invece, in realtà, in questo stesso periodo è molto cresciuta la concorrenza e ci sono dei siti di e-commerce come Amazon, come eBay, come la stessa Expedia, nel settore dei viaggi, che sono cresciuti molto più di quanto non sia cresciuto nello stesso periodo Google, il che dimostra che noi non stiamo ammazzando. Sì, uno potrebbe controobiettare: chissà quanto sarebbero cresciuti se Google non avesse abusato, secondo l'accusa, della sua posizione dominante. A me ricorda un po', chiaramente sono due cose molto diverse, le accuse che vengono fatte a chi gestisce sia la rete che i contenuti che viaggiano sulla rete. Pensiamo alla rete ferroviaria, alla rete del gas, alla rete elettrica, parlo non in Italia, parlo in generale. E cioè si è sempre detto: attenzione, perché il soggetto che gestisce la rete, in questo caso che gestisce il motore, non può privilegiare, deve essere soggetto terzo, quindi il famoso tema dello scorporo delle reti, perché altrimenti finirà per privilegiare le società che controlla e che viaggiano su questa rete, essendo lui proprietario della rete. E nel caso di Google si dice: sì, tu sei il motore di ricerca, sei il più famoso al mondo, il più usato al mondo, però se poi dentro, invece che mettere una classifica oggettiva dandomi tutte le voci e le possibilità, privilegi sempre comunque le tue società controllate, appunto i ristoranti, ma anche Google Maps e quant'altro, è chiaro che gli altri prendono le briciole. Questo è vero, però c'è una differenza fondamentale rispetto a, ad esempio, l'esempio che facevi tu ora delle reti, perché le reti sono un'infrastruttura abilitante dalla quale bisogna passare tutti. Sì, certo. Oggi invece, ad esempio, Google si difende anche sostenendo un'altra cosa. Dice: mentre fino a 4-5 anni fa tutti passavano dal desktop search, cioè dalla ricerca fatta attraverso il computer sul tavolo, oggi una gran parte del traffico non passa più dal motore di ricerca e dal web consultato attraverso il computer sulla scrivania, ma passa dal mobile. E su mobile la fanno da padroni altri soggetti, non certo noi. Ad esempio i social, dai quali arriva moltissimo traffico verso l'e-commerce, ad esempio le app dove Google non è presente, perché Google è soprattutto presente, diciamo, è presente anche nelle app, ma insomma diciamo è soprattutto presente come sistema di prioritizzazione del web nel web standard. Pensiamo ad esempio a un grande servizio di ricerca di ristoranti come Yelp. Yelp oggi ha il 40% del traffico e delle ricerche che proviene dalla app del mobile, e quelle sono utenti e ricerche che non passano attraverso il web. Sì, temo adesso, io non faccio commissario europeo per fortuna, ma temo che non basti dire esistono anche altri soggetti concorrenti che comunque sono cresciuti, esistono anche altri diciamo accessi, fonti di accesso, per smontare l'accusa di posizione dominante, di abuso di posizione dominante, perché la Commissione potrebbe comunque obiettare: sì, è vero, ma tu comunque stai abusando della tua posizione e privilegiando sempre i tuoi, le tue società o i tuoi servizi, i tuoi siti. Chissà come si sarebbe sviluppato il mercato se tu non avessi opposto questo imbuto. A questo proposito, visto che tu andavi sugli smartphone, c'è un'altra accusa. Noi ci stiamo concentrando sull'abuso di posizione dominante di Google. C'è anche un'indagine formale sul sistema Android. Che cosa riguarda questa? Sì, qui diciamo, come dire, in qualche modo si punisce il successo di Android. Android in pochi anni è diventato di gran lunga, è abbastanza impressionante la crescita che ha avuto Android, perché se ricordiamo fino a solo 4-5 anni fa c'era il sistema operativo Symbian, poi è arrivato c'erano i BlackBerry, c'era il sistema operativo, poi è arrivato di Apple e poi improvvisamente in pochi anni c'è stata una crescita enorme nel settore degli smartphone di Android, tanto che oggi credo che dei tre quarti o all'incirca i tre quarti dei telefoni smart, cosiddetti intelligenti, che vengono venduti sul mercato hanno il sistema operativo Android. Qui però, come dire, Google dice, sostiene una cosa che è difficilmente confutabile, dice Android in realtà è un sistema aperto, è un sistema open source che noi facciamo e mettiamo a disposizione di tutti i fabbricanti, tanto è vero che fabbricanti diversi come Samsung, come HTC, utilizzano tutti Android nei loro telefoni e preinstallano non solo le nostre app, perché qui l'accusa cosa dice? Tu fai il sistema operativo e poi all'interno del sistema operativo installi le tue app, certo, le mappe e quindi in qualche modo la mail, e quindi fai utilizzare prevalentemente agli utenti che utilizzano il tuo sistema operativo le tue app. È vero però che tutti i fabbricanti mettono all'interno del sistema operativo anche altre app proprie, app di terze parti come Microsoft, oppure di fornitori di servizi di musica, eccetera, eccetera, preinstallate. Qui il punto vero credo che sarà nel tentare da parte della Commissione Europea di dimostrare che esiste un legame nel momento in cui Google fornisce il proprio sistema operativo ai terzi, a chiunque, ai terzi, attraverso l'open source, che nel fare questo in realtà si richiede anche di preinstallare le proprie. Quindi c'è una forma, tra virgolette, di ricatto. Grazie, molto chiaro come sempre il direttore di Wired Italia Massimo Russo, che ringrazio. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.